Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchessi, oggi è il 29 aprile, Italia in controluce, seconda edizione. Un approfondimento del GR di Radio 24 sulla cronaca italiana. Marco Paolini, attore, regista, interprete di teatro civile, ha deciso di parlare Italia in controluce dei suoi racconti, del suo modo di narrare, della memoria italiana. Il suo è un viaggio nei luoghi della narrazione. Quanto pesa un metro cubo d'acqua? Basta mettersi d'accordo sulla misura e ci siamo. Un metro cubo d'acqua è grande così. E le frane le misurano a metri cubi, perché è l'unica misura che resta fissa. Perché il peso cambia a seconda che dentro c'è fango, terra. Il 9 ottobre del 63, dal monte Toc, qui sul fianco sinistro della valle del Vajont, si stacca una frana di 260 milioni di metri cubi di roccia. Piomba nel lago, dietro la diga del Vajont, e solleva un'onda di solo 50 milioni di metri cubi d'acqua, che solo per metà passa dall'altra parte della diga, ma è più che sufficiente a spazzare via dalla faccia della terra cinque paesi: Longarone, Pirago, Rivalta, Codissago, Faè, 2000 i morti. Marco Paolini, nei tuoi racconti quanto contano i luoghi e le ambientazioni? Partiamo per esempio dalla scelta della Vajont, dalla diga. Quando sono a teatro è importante avere in mente un luogo preciso, perché bisogna rifarlo con le parole. E l'evocazione è potente, perché fornisce non solo un fondo, ma un personaggio alla storia, che dialoga con gli altri elementi. Quando invece il racconto passa in televisione, si può evocare, ma la televisione è un'arte che contiene la visione, quindi si confronta anche con la potenza del cinema, e io allora preferisco cercare dei luoghi che o raccontino direttamente, nel caso della diga, del Vajont, oppure in qualche maniera suggeriscano qualcos'altro diverso da quello che io racconto, ma che ci entri in discussione, come nel caso di Miserabili, in cui parlo di un concetto, però parlo di un concetto contemporaneo, e allora scelgo un porto, un hub, un interporto, uno di quei luoghi dove si movimentano i container, per raccontare in qualche maniera come tutto questo alla fine torni dentro un mondo di cose che ci sono. Prima del Vajont, alcuni critici teatrali e anche televisivi giuravano che il teatro non avrebbe mai funzionato in televisione. Invece il Vajont e poi anche i successivi spettacoli portati in televisione hanno avuto un grande successo di pubblico. Segno dunque che un pubblico c'è. Perché quando io lavoro in televisione so che non mi devo rivolgere solo agli spettatori del teatro, e quindi quello che faccio, tra l'altro, è un teatro particolare, nel senso che non ha bisogno della quarta parete, anzi io mi rivolgo direttamente all'attenzione degli ascoltatori. Il fatto di non avere personaggi, ma il fatto di passare indifferentemente dai caratteri al narratore ad altre cose, io posso far parlare anche gli oggetti, i luoghi, appunto, è un linguaggio diretto. Da questo punto di vista è una sfida alla logica della società dell'immagine e del raccontare tutto per frammenti e per schegge, per immagini potenti. Io ho ridato fiducia alla potenza della parola e credo che i fatti diano ragione a questo, cioè in una società in cui si cresce con migliaia di immagini al giorno, la parola può mettere ordine in un caos di frammenti. Salve maresciallo, ci sta l'ufficiale, guardi, dica a me per cortesia, non cerchiamo sempre l'ufficiale. Cioè no, perché è una cosa abbastanza seria, perché io mica mi metto a ridere. Benissimo, è caduto un 19 lungo la rotta che va da Bologna a Palermo, sì. Punto stimato 40 gradi nord, 13 e 20 est. Questo è il punto dove è caduto? No, questo è l'ultimo punto noto. E a lei chi gliel'ha detto che è caduto? Perché viene chiamato teatro civile quando un teatro in generale, quello di narrazione, è già teatro politico? Non sono mai affezionato alle definizioni. Io chiamo quello che faccio teatro e basta. E mi piace pensare di fare teatro e basta. La civiltà è un risultato, diciamo così, un'etichetta apposta per differenziarlo da un teatro politico come quello degli anni 70, di un teatro a tesi, di un teatro derivante da quello brechtiano degli anni 30, un teatro in cui bisogna istruire il pubblico in base a una visione del mondo. Io non credo che ho bisogno di istruire nessuno sulla mia visione del mondo, ce l'ho, ma è secondaria rispetto alla possibilità di trovare degli argomenti su cui ragionare, riflettere e anche emozionarsi. Cioè, credo che sia sicuramente teatro politico quello che faccio, non ho bisogno di mettercela io l'etichetta. Credo che gli artisti che sono e vivono una condizione di privilegio debbano prendersi le proprie responsabilità decidendo quando e quando non fare le cose, però il problema c'è, e se non se lo pongono vuol dire che stanno vivendo nella bambagia. Molte di queste storie sono finite male, hanno avuto certamente una giustizia tardiva, spesso non l'hanno neanche avuta, come nel caso per esempio del Vajont, Empate e anche certamente quella di Ustica. Questa ricerca della verità è anche la tua ricerca? Allora, questo è un problema. Non si può affidare al teatro di essere il premio di consolazione. Una nazione non può rassegnarsi a non risolvere le proprie storie e una generazione non può affidare uno zaino pieno di storie incomplete a chi viene dopo dicendo fanne memoria, perché non è una memoria buona. Cioè, bisogna ammettere i propri fallimenti. E io credo che una giustizia tardiva sia già una condanna in sé, una condanna per le vittime, purtroppo. Su questo non si può essere indulgenti, bisogna pretendere un altro grado di civiltà, non può essere il teatro il grado di civiltà di una nazione. Fatto salvo questo, è chiaro che il teatro ha delle potenzialità, perché a differenza di un libro crea comunità di attenzione intorno alle storie. E quindi ha una sua funzione, non può essere sostitutiva di altre. Nemmeno chiaramente della giustizia. Nemmeno che mai, cioè non possiamo rassegnarci a scrivere una storia fatta nella maniera che indicava Pasolini. Io so chi è stato, ma non ho le prove. No, bisogna lavorare come Calvino, in maniera paziente, sui dettagli, per andare a non perdere di vista ogni singola storia. Cioè, il nostro è un paese che troppo spesso, sulla somma di una serie di cose incompiute, costruisce la teoria che dietro ci sia una spiegazione unica. No, io credo prima c'è la spiegazione di ogni cosa e casomai dopo c'è un legame tra le cose, ma andare in cerca delle soluzioni senza la pazienza di ricostruire le trame è indice di una lettura distratta, come di un giallista che vuol sapere solo il finale. Un altro tema importante dei tuoi racconti sono le stazioni, sono i treni. Come nasce questa passione per le linee ferroviarie, per gli odori dei treni, per le persone che vanno e vengono e anche per il viaggio? Nasce da un padre ferroviere e da un'Italia imparata sopra 1435 mm di scartamento di strada di ferro che unisce, che cuce un paese frammentato e spesso lontano, lungo, maledettamente lungo. Per me le distanze sono qualcosa che non si appiattisce al di là della velocità della comunicazione, così come le geografie, cioè le montagne sono una cosa, i mari sono una cosa fisica, solida, non si può immaginarsi in un paese piano, in un paese tutto vicino, perché l'Italia non è così. Il treno mi è servito un po' a capire questo, ci sono rimasto molto legato effettivamente, molto spesso anche un parametro per misurare l'idea che un paese ha di se stesso. Cavour diceva che la civiltà di un paese si misura dalle sue ferrovie, ovviamente adesso io sono in una piazzola di autostrada e quindi la civiltà di un paese si misura anche dalle piazzole delle sue autostrade. Che cos'è e che cosa deve essere oggi la memoria? Una memoria viva, una memoria del presente? Gerardo Colombo ha scritto un libro bellissimo che si chiama Il vizio della memoria. ed è un libro in cui fa delle domande e risponde in maniera molto pacata e civile a cose che stanno a cuore a molti italiani. La memoria è uno strumento che uno sceglie di usare, non può essere un fardello con cui riempire il calendario di giornate, di santi laici, di anniversari da celebrare per giustificare il fatto che per il resto dell'anno di quello non si parla. Quindi per me la memoria è lo zaino che mi porto, quei libri che mi porto sulle spalle, che scelgo di portarmi. Da questo punto di vista mi consola perché vedo che è contagiosa. Ci sono ragazzi di generazioni diverse che in qualche maniera raccontano di nuovo storie che non appartengono alla loro generazione perché hanno deciso di portarsene addosso, di indossarla, di non farne a meno. Quindi è una meravigliosa guerriglia perdente contro l'oblio. È perdente, ma dà delle soddisfazioni fortissime. E lì, la mattina dopo, si affacciano i soccorritori, più niente da fare o da dire. 5 paesi, migliaia di persone, ieri c'erano, oggi sono terra. Nessuno ha colpa, nessuno poteva prevedere. No, io ho scritto, la Sade spadroneggia, ma i montanari si difendono. Per piacere. Signora Merlin, ci sono i morti. Niente speculazioni politiche. Un sasso è caduto in un bicchiere e l'acqua è uscita sulla tovaglia. Tutto qua. No, io ho scritto una frana di 50 milioni di metri cubi minaccia vite e averi. Per piacere! Signora Merlin, ci sono i morti! Sciacalli! Sciacalli? Sciacalli, scriveva Montanelli sul Corriere della Sera. Sciacalli ripetevano a lettere cubitali i muri delle città italiane contro chi osava mettere in discussione la verità della disgrazia del Vajont. Ma ti pare che questa si può tenere nascosta? Beh, dimmelo tu! La diga del Vajont è il muro di Belluno. Funziona benissimo. Era la seconda edizione in Italia in Controluce, l'archivio di tutte le puntate www.radio24.it. Naturalmente potete scaricare anche in podcast. Per comunicare con noi, Facebook Radio 24 Italia in Controluce, la mail controluce@radio24.it. domani alle 6:30 su Radio 24.